Allora, il libricino che presenta lui, io faccio solo il facilitatore in quanto torinese ex di Aurora, è questo qua. È un libro, si intitola Venere degli stracci, e parla di l'ultimo pezzo, delle vicissitudini, che ha incontrato un mercato di Torino, che se voi siete stati a Torino probabilmente una delle cose che avete visto, che era da più o meno metà dell'Ottocento, è un mercato posizionato in un luogo abbastanza particolare, perché è molto vicino al centro, pur essendo considerato quasi periferia. E questo mercato si è configurato negli anni come una sorta di potrebbe assomigliare allo svuotacantine che fanno qua, però in una dimensione molto più ampia, cioè quando nella sua massima espansione coinvolgeva un intero quartiere fatto di molti isolati e la gente semplicemente veniva, si buttava a terra, degli stracci, alcuni con, cioè dei teli, alcuni avevano i tavoli, però era in base a come ti volevi organizzare, e vendeva quello che aveva da vendere. Ormai tanti anni fa è iniziata tutta un'opera legata un po' alla risistemazione post-industriale di Torino, che si è dovuta reinventare, e nel suo reinventarsi è venuto anche di reinventarsi una città turistica, quindi tendenzialmente attrattiva, ma in un altro senso. E il mercato è iniziato a essere un po' una macchia di sudicio troppo vicina al centro città. E da lì è partito, da metà degli anni 90, una fase di progressivo restringimento, cercando di regolamentarlo sempre di più, eccetera, con un apice nel 2019, quando è stato ordinato sostanzialmente lo sgombero di tutta quell'area, quella la parte diciamo cosiddetta abusiva, e da qui entra lui che vi racconterà queste cose. E parallelo a questo c'è anche il discorso della trasformazione del quartiere lì attorno, perché questo, diciamo, lo spostamento di questa macchia di sudicio, l'eliminazione, era funzionale a un processo di gentrificazione che tutto il quartiere, tutta la zona hanno subito in questi anni e che è ancora in corso, quindi non è una roba finita. E volendo, se riusciamo, perché non abbiamo tantissimo tempo, si prova a toccare anche magari queste parti di cui il libro parla. Grazie. Salto le convenzioni sul fatto che sono felice di essere qui, vi ringrazio, perché, vabbè, perché è giusto così, no? Perché è scontato. No, perché secondo me è importante, anche alla luce dell'introduzione fatta, entrare veramente nel merito della città, della sua conformazione e di questa storia, tanto forte quanto drammatica per la sua conclusione. Siamo a Torino, quanto conoscete Porta Palazzo, il Balloon? Forse lo conoscete, quindi mi limito soltanto a fare veramente pochissimi riferimenti. Siamo nel cuore popolare di Torino, un'area che ha accolto nei decenni le varie ondate migratorie, prima dal sud, Italia, e in questi decenni invece, le persone che vengono dall'altra parte del mare, e un quartiere, come dicevi, in trasformazione, il più grande, così dicono, mercato ortofrutticolo, quello di Piazza della Repubblica, dove nel frattempo è stato edificato un ostello di lusso, il Combo Hostel, in seguito alla riqualificazione di una vecchia caserma dei pompieri, ma anche il mercato centrale, di cui di sicuro sapete origine e determinazioni, funzioni urbanistiche. È stato sgomberato l'asilo, uno spazio occupato fondamentale per le lotte ai CPR, per le lotte contro gli sfratti nel quartiere a nord della Dora, no? quindi veramente poco distante dall'area di cui parliamo, si sta costruendo lo Student Hotel a poche decine di metri in linea d'aria dal cuore dell'area che raccontiamo questo pomeriggio. A Porta Palazzo c'è il Balloon. Darei alcuni riferimenti storici, in qualche modo ancora più, per così dire, raffinati sulla storia del Balloon, perché poi mi permettono questi riferimenti di parlare degli ultimi anni. Giustamente dicevi sin da metà dell'Ottocento. Beh, una cosa interessante è che il mercato degli stracivendoli, cioè il mercato degli oggetti ritrovati, scartati, no, dal sistema urbanistico, un tempo era al di qua delle mura, cioè dentro la città, il centro storico. È stato spostato oltre le mura, cioè oltre Porta Palazzo, nel 1850, perché già allora la città cambiava. Quindi forse in questo metabolismo urbano, no, di spostamento dell'indesiderato lontano dai centri interessati da determinati processi economici, beh, questa forse è una storia che riguarda la modernità urbana. E, bene, comunque per 150 anni questo mercato accoglieva persone che si arrangiavano vendendo ogni sabato, perché si tiene al sabato questo mercato, no, che si chiama Balloon, vendevano al sabato gli oggetti presi dalla spazzatura, gli oggetti presi dalle cantine, dalle soffitte. Nel corso del tempo alcuni di loro sono diventati antiquari e lentamente Borgodora, la via principale, è diventata una via di antiquari. In fondo la storia che raccontiamo questa sera è la storia dell'allontanamento di una parte del Balloon, perché l'altra parte, forse questo è un elemento fondamentale da sottolineare, l'altra parte è ancora presente, la parte presentabile, la parte adatta allo sguardo turistico, allo sguardo del centro città, lo sguardo dove ovviamente i prezzi però sono alti, non c'è più come dire l'immondizia esposta sulle stuoie. Quella parte allontanata di cui racconto è la parte invece eterogenea, socialmente eterogenea, dei più poveri, circa 500 famiglie, quindi stiamo parlando di numeri non irrilevanti, di provenienza varia, dai cassintegrati della Fiat che hanno cominciato a essere espulsi dalla fabbrica negli anni 80 e trovare un modo per sopravvivere fino a questi nostri giorni, ai baraccati del Lungostura, alle famiglie di origine magrebina, a quelle di origine romena. Diciamo che è il luogo d'incontro dei margini espulsi dai processi produttivi della città. Perché c'è stata questa divisione fra il mercato più ricco, gestito dall'Associazione dei Commercianti del Balloon, e il mercato dei più poveri, dei diseredati? Questo è avvenuto a inizio millennio, nel 2000 c'è stata un'alluvione che ha distrutto un ponte proprio lungo la Dora. In fondo noi siamo in un'area lambita dal fiume Dora, e in questo momento non soltanto un fiume ha travolto una parte di quartiere, ma una legge del governo, allora il ministro Bersani, elimina la possibilità di iscriversi a un albo urbano per i mercanti ambulanti. Fino al 2000, fino al 99, gli ambulanti potevano iscriversi a un albo e vivere, insomma, di piccoli commerci in strada. Questo non è più possibile. Le persone più povere si dispongono storicamente accanto al fiume, non hanno più un posto dove porsi perché c'è stato questo alluvione, e intanto le leggi dello Stato hanno di fatto eliminato la loro possibilità di rimanere lì. Interviene l'amministrazione di centrosinistra e inquadra i poveri all'interno di un'associazione, l'associazione Vivi Balloon, che gestisce i marginali, un'associazione tra l'altro che è l'emanazione di un ente di governance del quartiere volto a riqualificare i quartieri di Porta Palazzo, un ente si chiama The Gate, che tiene al suo interno rappresentanti della città ma anche della Compagnia di San Paolo, no? Uno dei principali attori politici e economici della città. Bene, i poveri vengono inquadrati all'interno di un'associazione, l'associazione non è gestita da loro ovviamente, ma da dei funzionari del terzo settore, che decidono che l'area dove possono stare i marginali è limitrofa al Balloon di Borgodora, in una via laterale, e pagano pagano una quota settimanale ogni sabato per poter stare. Questa quota è arrivata a essere 13 euro nelle ultime fasi del balloon. Insomma, non stiamo parlando di abusivi, anche se accettando in qualche modo le retoriche delle istituzioni. Nel frattempo, il balloon dei ricchi, lo dico così un po' semplificando, il balloon degli antiquari, fino al 2014 è gestito dal comune. Vuol dire che un venditore che sta nella parte di Borgodora, nella parte così più appariscente, deve interfacciarsi con la polizia municipale. Il 2014 è una data molto importante. Il comune, di nuova amministrazione di centrosinistra, decide di alienare la gestione del mercato a un ente privato, cioè a fare un bando, in modo che non sia più il comune a gestire un'area, un pezzo di quartiere, un mercato, ma sia una associazione che sarà l'associazione dei commercianti del balloon. Ecco che ho spiegato che cosa succede, questa divisione. Da una parte il mercato più adatto allo sguardo turistico, controllato da un'associazione di privati, l'associazione dei commercianti, dall'altro i poveri gestiti da un ente del terzo settore che di fatto li governa. L'associazione dei commercianti, come prende il potere, chiede che i poveri vengano mandati via, perché sono impresentabili, perché non sono adeguati allo sguardo che si vorrebbe attirare sul quartiere e sullo stesso mercato. Altri enti, magari ne parleremo più avanti, sostengono questa linea di esilio, e lo fa anche l'amministrazione Appendino 5 Stelle. Siamo nel dicembre 2018. Attenzione, un dato fondamentale: se l'amministrazione Appendino emana 2018 una delibera di sgombero a partire dal gennaio 2019, di sgombero dei poveri che dovrebbero andare in un'area lontano a nord della città, accanto al cimitero monumentale, bene, se questo è possibile c'è la volontà politica del governo Appendino, ma ci sono anche le scelte politiche dei governi di centrosinistra precedenti che hanno creato questa divisione, non lo hanno in qualche modo istituzionalizzata. E a questo punto succede uno scandalo, ed è un po' forse il centro di questo libro. I venditori, le venditrici decidono di non eseguire l'ordine urbano, cioè di non andarsene dal quartiere. Sono 150 anni che i poveri vendono in Borgodora, per quale motivo se ne dovrebbero andare? E allora in 500, poi 600, poi 1000, per 7 mesi, 8 mesi, violano la delibera del comune. Ogni venerdì sera prendono di fatto il controllo delle strade, accendono dei fuochi per riscaldarsi, perché siamo da gennaio, poi si va avanti febbraio, marzo, tutto l'inverno, fino a ottobre, e si auto-organizzano, non pagano più lo stallo alle istituzioni, in centinaia di persone prendono posto, e ogni sabato nasce un mercato autogestito. I reietti della città si permettono non soltanto di auto-organizzarsi, ma di negare la validità di una legge che ritengono ingiusta. Noi chi siamo? Io che racconto, altre persone insieme a me, siamo solidali, ovviamente noi cerchiamo soltanto di portare la nostra vicinanza, il nostro supporto a una lotta che è una lotta di persone che hanno voglia di stare nel quartiere, hanno voglia di lavorare. È un'esperienza molto forte di cui si racconta proprio nel libro, un'esperienza che viene distrutta, sopita, annullata soltanto con la forza delle multe. La municipale comincia a fare multe da 5.000 euro in maniera casuale alle persone, e con la celere, perché arriva l'antisommossa, siamo nell'ottobre del 2019, arriva l'antisommossa per impedire alle persone di stare nel quartiere. Addirittura nello spiazzo di San Pietro in Vincoli si costruisce un muro di gersi di cemento per impedire alle persone di giungere, e nonostante questo alcune persone, decine di persone, decidono di continuare la lotta e decidono di sfidare i vari presidi di camionette e di mezzi della polizia disposti nel quartiere, e riescono, noi li affianchiamo, riescono ancora per qualche sabato a organizzare dei mercati estemporanei dove la polizia non si mette. Sorge un mercato improvviso che, nel momento in cui è di 70-80 persone, è difficilmente gestibile, quando le stuoie con i poveri oggetti sono disposti. Anche in questo caso giungerà la repressione, di fatto ci saranno delle cariche da parte dell'accelere, e lentamente la resistenza si indebolirà. Ma a questo dobbiamo tenere conto delle condizioni, come dire, politiche, delle persone protagoniste di questa lotta, persone che a volte non hanno i documenti, profondamente ricattabili, precarie, che difficilmente possono esporsi a lungo nei confronti, no, di una repressione così, così muscolare. E dunque oggi questa parte del Balun la possiamo trovare a nord, diversi chilometri a nord, in uno spiazzo circondato da una parte dal cimitero, dall'altra parte da un deposito di basoli e pietre dismesse che appartengono alla città, e a una discarica dell'Amiat, in un recinto dove non danno fastidio a nessuno, dove non, lo sguardo, come dire, ben pensante, borghese, turistico, non è turbato dalla loro presenza. Ed è un mercato vivo, è un mercato frequentato, perché l'esigenza economica che porta le persone a vendere e a comprare è notevole, e sono un concreto elemento dell'organismo socio-economico della città, e quindi ora però sono esiliati, e il Balun continua a sussistere privato della sua parte più povera, e diventa sempre più, come dire, un simulacro di se stesso, cioè il luogo dell'antiquariato, delle merci d'antan, dimentico della sua origine, della sua concreta origine storica legata ai fenomeni di povertà urbana, tentando di in qualche modo trasformare la storia in una specie di rappresentazione, uno scenario per acquirenti ambienti e turisti. Questo è un po' il quadro di cui si racconta. Dico ancora due parole sul libro, poi possiamo anche iniziare la discussione e anche magari ragionare sull'adesso, perché questo di fatto quello che ha raccontato è un processo, ed è anche un metodo per provare a raccontare un processo, ma la storia va avanti, no? Nell'orrore, nelle ingiustizie e anche nei piccoli momenti di speranza che riguardano questo quartiere e più in particolare il nord della città. Che tipo di libro è? È un racconto, un reportage, un saggio? In realtà è un libro eterogeneo, perché prende ispirazione proprio dalle persone con cui ho passato il tempo in questi mesi. Cosa è forse la caratteristica più importante per me di questo mercato? Sono gli oggetti che vedevo sulle stuoie dei mercanti, dei miei amici, in particolare di Claudia, che è poi la persona più vicina a me, la meditrice più vicina a me. Le stuoie sono un aggregato di oggetti eterogenei, si possono trovare dai DVD, ai calzini, alle lenzuola, alle tende, agli oggetti di ricambio per auto, ai tini per fare il vino. È una aggregazione di eterogeneità. E io ho cercato in qualche modo di ispirare la mente stessa che racconta alle immagini che vedevo sulle stuoie, quindi anche il racconto è un accostamento di frammenti. Il tentativo è stato quello di aggregare note sul campo, interviste, storie orali, leggi, riflessioni sulle strategie della repressione poliziesca, mescolare il saggio alla narrazione, al racconto puro, cercando di aggregare un sistema di frammenti. Ogni frammento ha la dimensione di una pagina, no? Quindi è in sé autonomo come un oggetto sulla stuoia, ma a livello è anche un tassello di un mosaico che produce il racconto di una lotta, di una resistenza, e anche il racconto delle ragioni profonde che hanno portato al cambiamento di questo mercato in generale, del quartiere. Questo è interessante, qui concludo, anche da un punto di vista metodologico, perché lavorare con i frammenti significa lavorare con dei materiali più grezzi, più concreti, che ci permettono soprattutto a chi legge di muoversi nelle, come dire, nelle intersezioni, nelle fratture che si compongono, che si aprono fra un tassello e l'altro. Sicuramente c'è un processo urbano, c'è un fenomeno di allontanamento incremento, di incremento del valore immobiliare, dell'incremento dell'interesse turistico. Però il lavorare per frammenti permette di non restringere lo sguardo a una cornice di lettura precisa. Ovviamente il lavoro di racconto è un lavoro solidale che sta a fianco a una lotta, ma al tempo stesso l'interpretazione si muove fra la frammentarietà della realtà urbana, nel tentativo di non come dire, circoscrivere il racconto a uno schema di lettura già definito da chi scrive. Ecco, il frammento narrativo, così come il frammento dell'oggetto sulla stuoia, permette allo sguardo di muoversi con più libertà e dunque di trovare dei fili interpretativi molteplici, perché molteplice, secondo me, è la città che ci si presenta davanti, anche nelle sue ingiustizie più drammatiche. E proprio grazie a un pensiero molteplice, stratificato, aggregato su diversi piani e diverse immagini che si legano una con l'altra, possiamo forse trovare metodi di comprensione più efficaci da utilizzare nei momenti in cui lottiamo e portiamo la nostra solidarietà. Cioè, abbiamo parlato del mercato, che più o meno l'evoluzione è stata quella, cioè il mercato, cioè sussiste ancora una parvenza che poi in realtà, se uno non l'ha mai visto, quando viene da fuori gli sembra che c'è ancora un mercato, perché effettivamente accanto al mercato della frutta ci sono ancora un sacco di bancarelle dove comprare un sacco di cose, però non è paragonabile a... Per capire un po' com'era bisogna andare a quello che si ha preso a memoria di Souk, che sta a molti chilometri da lì, e quello conserva ancora questo aspetto di vengo, mi butto lì e vendo. E invece, ritornando nel quartiere Aurora, Borgo d'Ora, quelle cose lì, e si è detto questa è la parte del mercato, e attorno al mercato, perché secondo me è una cosa un po' particolare che non si coglie... tantissimo in una città tipo Firenze, dove il tessuto produttivo è quasi sempre stato tutto spostato sulla piana. Cioè, Torino in realtà è questo quartiere ai margini del centro, storicamente era un quartiere di disgraziati già dall'Ottocento, perché scendeva verso la Dora ed erano baracche, però c'era tutta una parte diciamo di tessuto produttivo appena appena poco oltre a circa, diciamo, un chilometro dal mercato. C'era un'area produttiva molto grossa, perché come spesso si sente, cioè se non sei torinese pensi a Mirafiori Sud come il quartiere della Fiat. In realtà questo, cioè, il tessuto produttivo era molto più espanso. In quel quartiere c'era un pezzo di città che era grosso come Novoli, più o meno, come il quartiere di Novoli, che era soltanto fatto di fabbriche in virtù del fatto che c'era la Dora vicina, quindi le fabbriche erano proprio sopra, e lì c'era la Fiat, la Texid, che era un altro indotto Fiat, le Acciaierie Savigliano, la Michelin, e quella roba lì occupava gran parte del quartiere. Ora di quello lì non c'è più niente, e quindi volevo chiederti, nell'analisi delle trasformazioni, cioè, come, cioè, secondo te, cioè nel libro te non passi proprio esattamente di questo, ma tratti più della parte, quella più vicino al balun, no? Però io penso che faccia parte della stessa trasformazione urbana, cioè di questa cosa di una Torino che si inventa posto industriale, in qualche modo tutto il retaggio dell'industria che non c'è più, di quell'indotto, scompare e appare un'altra roba, no? Quindi magari se vuoi raccontare un po' che cosa hai osservato te rispetto a queste cose e le parti che parli, cioè di quelle cose di cui parli nel libro, e che la trasformazione del mercato balune è un pezzo. Sì, per capire quello che è successo nella fase di deindustrializzazione della città, forse un passo importante da fare è guardare al piano regolatore del 94-95, che è un piano regolatore che reinventa, ridisegna la città alla luce dei vuoti industriali presenti e previsti. E questo piano regolatore che cosa di fatto prevede? Innanzitutto una lunga linea stradale che va da sud a nord, che è la spina, che poi verrà divisa in lotti, spina 1, spina 2, spina 3, spina 4, che è oggi è una delle principali vie stradali che taglia in due la città. Ma lungo questa spina ci sono grandi complessi industriali. In queste aree abbiamo quelle che erano le officine grandi riparazioni, le OGR, ma nella stessa linea oggi sorge il grattacielo di Compagnia di San Paolo e poi si arriva proprio nell'area a cui facevi riferimento, dove c'erano le ferriere Fiat, dove passava la ferrovia che ora passa sottoterra, dove oggi sorge un parco post-industriale e un quartiere residenziale di fatto gestito nel suo disegno urbanistico dagli investitori che hanno messo i capitali per cambiarlo, in particolare Nova Coop. Bene, perché questa trasformazione ci riguarda? Andiamo a vedere per esempio le officine grandi riparazioni, è una grande opera di rigenerazione urbana cosiddetta gestita da CRT, dalla fondazione di CRT, cioè la seconda fondazione bancaria che determina molti aspetti dei piani urbanistici della città. E poi ho parlato del grattacielo di Compagnia di San Paolo. Compagnia di San Paolo è un altro ente politicamente molto rilevante sul territorio urbano. Bene, cerchiamo di capire che cos'è Compagnia di San Paolo, perché Compagnia di San Paolo ha una responsabilità decisiva nello sgombero degli stracciventoli. Io vi ho parlato di questa agenzia territoriale che si chiamava The Gate, questa agenzia territoriale determinata a creare il mercato degli stracciventoli, cioè sottoporre gli stracciventoli a un controllo governativo, costituendo questa associazione. Associazione Vivi Balloon, siamo nel 2000. Bene, l'associazione, l'agenzia territoriale di Gate è governata da una esponente del Partito Democratico che sarebbe diventata capo dell'assessorato alle politiche sociali per Chiamparino e per Fassino. Si chiama Ilda Curti. Ed è Ilda Curti che gestisce e pensa attraverso di Gate la rigenerazione del quartiere. Qual è il dato interessante? Che nel board di The Gate siedono rappresentanti del comune, eletti dal comune, rappresentanti di Compagnia di San Paolo e rappresentanti della Camera di Commercio. Quindi chi gestisce la riqualificazione della città post-industriale, la rigenerazione urbana? La stessa Compagnia di San Paolo, che siede nei luoghi deputati a gestire i processi di trasformazione urbana. Ma purtroppo, dico purtroppo, la storia non finisce qui, perché proprio durante la lotta degli stracciventoli c'erano dei cittadini, per così dire, come dire, solidali, ben pensanti, che raccolsero le firme per difendere il mercato dei poveri e portarono 2.000 firme in comune e si costituirono come comitato, si chiamavano Comitato Oltredora. Noi costoro non li abbiamo mai visti in strada a fianco agli stracciventoli. Quando c'erano le cariche, i cittadini che raccolsero le firme non c'erano. Quando la polizia ha sgomberato definitivamente il Balloon, il Comitato Oltredora aveva già stretto un accordo con la Compagnia di San Paolo per costituirsi come fondazione di comunità di Porta Palazzo, cioè un nuovo ente di governance deputato a gestire la riqualificazione del quartiere. Dopo The Gate, nel giro di 3 anni hanno ricevuto più di 100.000 euro da Compagnia di San Paolo. Attenzione, qual è il problema? Senza limitarsi a essere, come dire, avanzare i giudizi. I cittadini del Comitato Oltredora stavano contestando l'allontanamento degli stracciventoli, ma l'allontanamento degli stracciventoli era possibile grazie all'operato di The Gate, controllato Compagnia di San Paolo. Bene, lo contestano, si legittimano politicamente come soggetto attivo nel quartiere, ottengono i soldi da Compagnia di San Paolo per diventare un nuovo ente di governance. Questo è sostanzialmente un dato abbastanza desolante, perché non sono soltanto, come dire, le forze dell'ordine, no? La polizia, che con la loro violenza determinano le sorti di un quartiere, ma sono anche i cittadini del terzo settore, legati ai fondi delle fondazioni bancarie, che che completano l'opera. Notizia di questi giorni, sostanzialmente un ulteriore finanziamento che hanno ricevuto dall'ennesimo bando europeo. Studiare la città post-industriale significa studiare questi vuoti urbani e vedere come questi vuoti urbani hanno una razionalità gestita da attori fondamentali come le fondazioni bancarie e vedere come le fondazioni bancarie di nuovo hanno un ruolo da protagonista all'interno del processo di cui stiamo parlando. Un'ultima postilla per comprendere il problema della filantropia, no, di Fondazione Compagnia di San Paolo, perché ogni azione che fa Compagnia di San Paolo lo fa per il bene, per riprodurre un tessuto, per così dire, di welfare urbano devastato ovviamente dalle politiche pubbliche che ben conosciamo. Ma cerchiamo di capire che tipo di filantropia è questa di Compagnia di San Paolo e delle altre fondazioni. La città di Torino non può erogare welfare pubblico perché banalmente ogni anno paga milioni di euro soltanto sugli interessi del debito. Contratto con chi? Beh, il principale creditore è la banca Intesa San Paolo. Ma chi è il principale azionista della banca Intesa San Paolo? È Compagnia di San Paolo, detiene il 6% delle azioni. E i soldi erogati da Compagnia di San Paolo per le opere di bene, per le opere filantropiche, sono i proventi del mercato finanziario. Cioè, se si seguite il gioco di relazioni, Intesa San Paolo tiene per il collo la città di Torino, che non fornisce più servizi pubblici, e il principale azionista della banca attraverso i fondi ottenuti dal mercato finanziario sparge briciole che vengono legittimate come opere filantropiche. In fondo io come faccio a contestare la filantropia? Come faccio a contestare i buoni? In fondo fanno opere di bene. No, in realtà le opere di bene sono opere di ipocrisia, perché dietro un'apparente incontestabile azione urbana c'è un preciso disegno di governo della città che deve essere smontato e criticato. Allora, se noi andiamo a guardare quello che accade, se stiamo a fianco agli stracivendoli, vediamo la violenza profonda che investe queste persone, cogliamo come funziona il processo urbano. Per rispondere ancora a un altro aspetto che stavi ponendo, qui chiudo la risposta, hai menzionato questo luogo dove ora sono rinchiusi di fatto i poveri esiliati in via Carcano. Beh, dopo il libro la ricerca urbana continua, ho cercato di seguire, conoscendo molto bene i venditori, di seguire come funzionano certi processi nel mercato esiliato dei poveri. Fondamentalmente all'alba, alle 5-6 di mattina, si presentano in via Carcano alcuni antiquari che venderanno in Borgo d'Ora, ricchi, e prendono gli oggetti migliori a prezzi ribassati, perché intanto il mercato esiliato ha dovuto abbassare i prezzi, così come il mercato più ricco, senza più la concorrenza degli straccioni, può aumentare i prezzi per lo sguardo compiaciuto dei turisti e dei cittadini abbienti. Beh, abbiamo tracciato degli oggetti grazie alle informazioni degli abitanti e dei commercianti, scusate, degli stracivendoli. Io sapevo dove ritrovare quelle pellicce, quelle camicie comprate dai poveri in via Carcano. Le ho ritrovate. Il prezzo è per 20. Una pelliccia comprata a 7 euro in via Carcano viene rimessa a 140 euro la settimana dopo dalla parte dei ricchi. Questo che cosa significa? Questo significa che la sperequazione, il divario fra ricchi e poveri, se posso semplificare, l'impoverimento degli stracivendoli, l'arricchimento degli antiquari, non è un fenomeno dovuto dal libero mercato, dalla mano invisibile di Adam Smith, è dovuto dal preciso intervento di fondazioni bancarie, della polizia, della municipale, della Digos, che hanno prodotto questo processo di allontanamento. Cioè è lo Stato o sono gli enti privati che collaborano nella gestione della città con lo Stato a produrre il divario sempre più notevole fra arricchimento e impoverimento della città. E questo mi sembra studiare il filo rouge di una pelliccia, di una camicia, fra un mercato dei poveri e un mercato dei ricchi, è un modo per comprendere a livello microscopico, no, micrologico, un esempio di come funziona concretamente il sistema economico in cui siamo immersi.